Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua nella prima rosa purpurea di agosto, nell'inizio, nel primo giorno di questo nuovo mese. Noi staremo insieme come sempre anche tutto agosto, anche il 15 agosto, che tra l'altro è sabato, come sempre dicevo, nella nostra ora di cinema dalle 18 alle 19 del sabato, e per quanto riguarda questo mese anche la domenica vi faremo compagnia con una replica, insomma, perché di cinema ce n'è, non ce n'è molto, ma non ce n'è neanche pochissimo, anzi forse rispetto agli altri mesi di agosto qualcosa in più si è mosso, perché dopo e ancora non superata la parentesi Covid, c'è tanta voglia di provare a fornire nuovo materiale. Tra l'altro sarà un agosto con anche finalmente un paio di titoli importanti che potrebbero muovere la situazione, le acque difficili, stagnanti della situazione dei cinema al coperto. Non è mai stata la stagione d'oro quella del mese di luglio ed agosto per le sale al chiuso, però quest'anno chiaramente la situazione è drammatica, e forse film come Onward o come Tenet potrebbero dare una mossa. Però noi andiamo con ordine, siamo solo all'inizio di agosto, escono anche questa settimana in sala parecchi film, ne parleremo, ma è anche stata la settimana in cui è stata presentata la mostra del cinema di Venezia, altro ingrediente fondamentale per il rilancio, la ripartenza del sistema cinema in Italia. Il fatto che Venezia dal 2 al 12 settembre sia il primo grande festival mondiale che si svolge in presenza, seppure con limitazioni, con attenzioni che faranno impazzire l'organizzazione sicuramente, beh, insomma, è un segnale molto importante. Il festival è stato presentato in settimana, come dicevamo, da Alberto Barbera in una conferenza stampa online, e noi abbiamo al telefono, e ne vogliamo parlare insieme ovviamente di questa selezione, proprio uno dei selezionatori, Emanuele Rauco, che saluto. Ciao Emanuele. Ciao Franco e ciao a tutti gli ascoltatori. Ben ritrovato alla Rosa Purpurea, eravamo stati insieme anche l'anno scorso proprio per parlare della esatto, selezione veneziana, sì, a cui tu hai contribuito. E allora andiamo un po' per spunti, per argomenti. L'abbiamo detto, non era un anno facile, materiale non ce n'era molto, film pronti non ce n'erano molti, le compagnie americane tengono un po' in frigo i loro migliori titoli aspettando che la bufera passi, insomma non è un momento semplice, però Venezia è riuscita a mettere insieme un programma, parlo del concorso soprattutto, comunque molto interessante, comunque con degli aspetti di grande interesse, di grande seduzione cinematografica, diciamo così, magari un po' più cinefil rispetto al solito, però sicuramente molto molto interessante. Ed è, fammi dire subito, Emanuele, spicca all'occhio un'edizione femminile, qualcuno ha scritto Venezia è donna, perché non solo Kate Blanchett alla guida della giuria, ma è un numero senza precedenti quello di registe, 8 su 18 in concorso a Venezia. Partiamo da qui, è un anno appunto in cui Venezia è donna. Sì, è un anno in cui Venezia è donna. Ovviamente le critiche che negli anni abbiamo ricevuto per noi e altri festival, ma in particolar modo noi, come appunto per l'esiguità della rappresentanza femminile, ci hanno un po' aperto gli occhi. Allora, si può pensare anche il fatto che, come dicevi tu, non essendoci dei film di grandi produzioni o di grandi nomi pronti o che, come dire, disponibili, cioè, perché come dicevi tu potrebbero essere stati messi in congelatore per tempi migliori. Però è anche vero che ci siamo accorti di una cosa durante questi mesi di selezione, ovvero che la questione Me Too in effetti ha avuto un suo spazio, non solo perché sono arrivati più film diretti da donne, ma soprattutto che ci siamo accorti che le produzioni hanno avuto il coraggio di affidare a delle donne dei progetti più competitivi, che è quello che poi dicevamo nel corso degli anni. Non solo i film delle donne erano meno di quanti sarebbero dovuti essere, ma a volte alle donne non veniva data fiducia nel poter gestire dei progetti complicati. Quest'anno abbiamo visto che moltissimi progetti di grande livello, anche di grande ambizione artistica, estetica e produttiva, sono stati affidati a donne, e questo ci ha portato anche a poter ampliare lo sguardo e a poter portare in concorso quasi la metà dei film selezionati, ma anche nelle altre sezioni molti molti film molti, come dire, selezionati anche nelle altre sezioni, ecco. E allora, questo per quel che concerne le donne. Emanuele, parliamo però degli italiani. 4 film italiani in concorso, 4 registi importanti di estrazioni diverse come Gianfranco Rosi, già Leone d'Oro, Susanna Nicchiarelli, Claudio Noce ed Emma Dante. Come è stata formata questa squadra italiana per il Leone d'Oro? Allora, innanzitutto abbiamo scelto una squadra per il concorso più nutrita del solito, perché di solito la regola non scritta prevede 3 film italiani in concorso. Quest'anno abbiamo deciso di fare 4 per 2 motivi. Uno, perché ci sembrava che la pattuglia italiana quest'anno fosse, come dire, qualitativamente più forte, e l'abbiamo scelto un po' cercando di, che quello che poi proviamo a fare sempre, mappare lo stato delle cose del cinema italiano attuale. Quindi abbiamo il documentario di Rosi, non solo perché Rosi è il più grande documentarista italiano e uno dei più grandi documentaristi europei, ma perché è un, come dire, anche la testimonianza di come il documentario come forma di cinema sia da anni in Italia forse la cosa, almeno dal mio punto di vista, più creativa. Il film di Susanna Nicchiarelli, perché dopo Nico conferma e anzi rilancia il suo status di cineasta, di grande talento, di grande inventiva anche nel raccontare la storia. Qui racconta la storia della figlia più piccola di Karl Marx con una forza, con un impeto che è assolutamente modernissimo e contemporaneo. E poi c'è il film di Claudio Noce, che anche quello è un modo per rileggere una pagina di storia, anche un cinema civile, attraverso però, come dire, delle sfumature molto più intime, anche molto più, oserei dire, visionarie, ma non dico di più per non rivelare troppo del film. E poi il film di Emma Dante, che anche qui è una conferma di un talento che sa prendere le proprie storie teatrali e renderle cinema. E anche qui non è un film che gioca di conserva sul proprio talento e sul suo primo film, che era Via Castellana Bandiera, che è anche quello in concorso a Venezia, ma anche qui rilancia, cerca di reinventarsi, di riproporsi nuovamente, anche perché sono passati un po' di anni, al pubblico italiano e festivaliero. Ecco, 2 minuti per chiudere, Emanuele, sulla dimensione invece internazionale. Dicevamo sicuramente meno America, perché i film non ci sono, sono pronti, e il festival l'ha risolta con 2 nuovi americani o nuove americane come Chloe Zhao, bellissimo il suo The Rider, che porta a Nomadland con Frances McDormand, e The World to Come della norvegese ma residente a Brooklyn, Mona Fastvold. E poi però invece tanti nomi, penso a Konchalovsky, penso a Malgorzata Szumowska, penso a Mundruczko, tanti nomi da festival, diciamo così, e anche sì, la nipote di Coppola, siamo già arrivati alla terza generazione, Gia Coppola, e anche Pietro Castellitto. Insomma, c'è anche tanta dimensione internazionale, un po' proprio da festival, fra virgolette, e sai cosa ti dico? Che il film che aspetto con più curiosità è quello nuovo di Uberto Pasolini. Allora, noi tra l'altro il lavoro che abbiamo fatto quest'anno, proprio in assenza di americani, come dire, di molto attesi, ma anche di un certo tipo di film europei, teatri europei mainstream, quindi i molti francesi che erano, come dire, giustamente sono stati assicurati da Cannes o per quest'anno o per il prossimo, abbiamo potuto innanzitutto aprire lo sguardo su delle zone d'Europa e del mondo che meno frequentemente riusciamo a selezionare, e questo, come dire, è anche un auspicio che nelle edizioni post-Covid si possa continuare ad avere questo sguardo più aperto possibile. E l'altra cosa è che appunto abbiamo voluto dare ad Orizzonti un impatto diverso, perché finora, cioè almeno negli ultimi anni, Orizzonti è stato come dire, un luogo dove i film degli esordienti, degli emergenti potessero trovare casa. Invece quest'anno abbiamo voluto dare più solidità. Se per esempio il Serpent Regard a Cannes ha grandi autori al loro interno, anche molte palme d'oro, senza che nessuno se ne scandalizzi, perché il Serpent Regard non è un concorso di Serie B, ma è un altro modo di guardare il cinema. Abbiamo cercato di fare anche questo anche noi quest'anno con Orizzonti, e quindi c'è il film di Raf Diaz, che è stato un nostro un leone d'oro qualche anno fa, c'è il film di Umberto Pasolini, che è molto atteso perché dopo Still Life, il suo modo molto tenero, molto delicato di raccontare determinate storie fa bene al cuore, diciamo così, e siamo felici, almeno personalmente sono felice che siamo potuti andare a scoprire o delle regioni cinematografiche oppure dei nomi che i cinefili più militanti già scoprivano, come il regista Zero di In Between Dying, e che però noi abbiamo potuto quest'anno dare uno sguardo, cioè come dire, lanciarlo in maniera più forte, cioè fare in modo che registi che i super cinefili conoscono e che magari il pubblico più ampio meno, poter dare la vetrina giusta, e speriamo che poi anche i film possano piacere al pubblico così come sono piaciuti, certo, a noi. Certo, come sempre l'auspicio di ogni selezionatore. Grazie Emanuele Rauco, che è componente della commissione di selezione della Mostra del Cinema di Venezia dal 2 al 12 settembre, e a risentirci quella rosa purpurea. Ciao Emanuele. Grazie a voi, ciao ciao. E allora, questo per presentare Venezia 2-12 settembre, però c'è tanto cinema in sala, noi fra poco ne parliamo, a partire da un legal thriller con Olivier Gourmet che si intitola Una intima convinzione, prima la viabilità. La rosa purpurea. Avvocato Dupont Moretti, l'avevo contattata riguardo il caso Viguier. Vorrei che si occupasse del caso. Se accetto, devo leggere il fascicolo giudiziario. Si tratta di un errore madornale. Perché ha aspettato tanto tempo prima di parlare dell'assenza di sua moglie ai suoi colleghi? Non sanno nemmeno se è morta. Non c'è un cadavere, non ci sono prove, né un movente. E allora lei chi è? Sono un'amica di famiglia. Seconda parte della Rosa Purpura, che riprende con i connotati del thriller, del legal thriller, genere diciamo che il cinema americano soprattutto ci ha insegnato ad amare con tantissimi film, e che invece questa volta ci arriva dalla Francia con la regia di Antoine Rimbaud, per cui è un esordio nel lungometraggio, e con i volti famosi di Maria Foïs e soprattutto Olivier Gourmet nei panni appunto del protagonista. Una intima convinzione, il film distribuito da Movies Inspired, che è molto molto attiva come distribuzione in questo mese di agosto, il racconto appunto di una battaglia legale dopo un omicidio di una donna. L'uomo, il marito, viene accusato e poi assolto in seconda istanza in tribunale, e una donna decide di sostenere la causa di quest'uomo quando viene fatto ricorso contro questa sentenza, insomma contro un giustizialismo che evidentemente vede tracimare in quel momento. È in effetti un film che, al di là della struttura da legal thriller classico, pone tutta una serie di interrogativi sulla giustizia, sulla legalità, interrogativi molto molto attuali. Boris Sollazzo in collegamento con noi, ciao Boris. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buon agosto anche a te. E allora cominciamo con questo film, dicevo, legal thriller nella forma, però con tanti rivoli che lasciano riflettere su una serie di situazioni come quella appunto della giustizia, di cosa è giusto, di cosa è legale, che non sempre sono concetti che vanno a braccetto. Legal thriller è storia vera, perché parla di Jacques Vigier, quest'uomo che perde la moglie 38enne, di cui non si trova il cadavere. Siamo nell'anno 2000 in Francia, e scoppia un caso giudiziario di cronaca nera che lo vede protagonista. Lui sembra il colpevole perfetto, nonostante di perfetto non abbia niente, non abbia, è vero, un alibi, ma non abbia neanche un movente, non si riesce a trovare qualcosa che non sia puramente indiziario nella realtà della sua vicenda. Esce fuori un amante della donna, un amante molto innamorato, un amante che è anche molto motivato nel farlo in qualche modo incolpare, e lui entra in un vortice mediatico, giuridico, che ne rovinerà l'esistenza. Ne rovinerà l'esistenza talmente tanto che sentirà il bisogno a un certo punto di scrivere un libro dal titolo eloquente, Innocente, perché poi la vicenda si chiuderà così, con la verifica della sua innocenza, ma per la Francia questo rimarrà forse il caso, il Dreyfus moderno, il caso per eccellenza. Se provate a digitare su Google troverete ancora adesso tantissimi articoli, tantissimi commenti su quello che è rimasto un caso che è entrato nell'immaginario. Rimbaud fa una cosa difficilissima, esordisce con, è vero, gli schemi del legal thriller che possono essere anche molto rassicuranti, i recinti del legal thriller che possono essere anche molto rassicuranti, ma con una storia che tutti conoscono, e fa la scelta giusta, cioè fa una scelta di principio, non cerca necessariamente l'empatia con il presunto colpevole. Perché dico presunto colpevole? Perché questo è il caso giudiziario che trasforma la visione giustizialista della Francia, cioè si è, fino a quel momento il sistema davvero anche a livello di percezione portava la presunzione di innocenza all'estremo, qua i media costruiscono la presunzione di colpevolezza, quindi quest'uomo si ritrova ad essere etichettato già come imputato e come colpevole e deve scardinare questo sistema di carte e di testimonianze. Che cosa succede? Rimbaud ha un'idea molto intelligente, l'unico personaggio non reale è Nora. Nora è una donna che trascura figlio e lavoro perché dopo aver assistito al processo decide che quest'uomo per una sua intima convinzione è innocente. Riesce a convincere un principe del foro, interpretato da Olivier Gourmet, a difenderlo, pena però il fatto che l'avvocato gli dice va bene, lo farò, ma tu devi sbobinare tutti gli interrogatori dell'accusatore. E così lei diventa una sorta di memoria storica, emotiva, giudiziaria, ma anche umana di questo caso, e Rimbaud cerca di farci capire quanto si sia arrivati a un livello in cui ormai i processi, anche i più importanti, vengono fatti fuori dalle aule dei tribunali e le vite vengono rovinate, vengono condizionate da tutto fuorché dalle evidenze dei fatti e dalle evidenze delle prove. Molto rigoroso nei contenuti, molto interessante anche nella forma, grazie ad ottimi attori. Rimbaud evita tutti i pericoli che normalmente si preparano davanti a un esordiente, cioè il tentativo di dimostrare quanto si è bravi a scapito della storia. Lui invece mantiene uno stile asciutto, si affida a questi grandi attori, il risultato è molto interessante, anche perché pone più domande di quante risposte dà. Non necessariamente usciremo con la certezza dell'innocenza del colpevole, ma usciremo con la certezza che qualcosa negli ultimi 20 anni è cambiato, ed è cambiato in peggio nella valutazione etica della giustizia, e non è poco per chi esordisce, anche se non è un metraggio di finzione, perché c'è invece una lunga storia con gli altri generi. Susie voleva il divorzio, Jacques si opponeva. Noi ci basiamo sulle testimonianze e tutte ci riportano al signor Viguet, alla pista coniugale. Tenga. Ha visto del sangue nella vasca da bagno. Lo sa che ci sono delle nuove intercettazioni nel dossier? Davvero? Davvero. Mi dica lei che cosa ne pensa. È convinto della colpevolezza di Viguier, è irremovibile. È un'intima convinzione in sala con Olivier Gourmet. Noi giochiamo insieme prima di passare alla prossima proposta cinematografica, sempre nelle proposte in sala, con la prima traccia del nostro film misterioso di oggi. Da quanto sei sveglia? Qualche ora. Non dormo. Lo sai, se chiudi gli occhi e ti stendi, aiuta a volte. Lui non c'è lì fuori. Te lo giuro. Qualcuno che non c'è lì fuori, evidentemente qualcuno che la protagonista invece vede o pensa di vedere. Un film recente, molto bello, molto interessante. Se l'avete già individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due Blu-ray che vi aspettano e più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Qualcuno ha detto che il mondo sarebbe finito nel 99. Ora siamo nel 2000. E siamo ancora vivi, quindi. E note suadenti della colonna musicale, che è uno dei tanti motivi di interesse di questo splendido film, Un lungo viaggio nella notte di Gan Bi, film orientale di produzione cinese, con un cast che vede Wei Tang e Sylvia Chang nei due ruoli principali. La storia di un uomo che torna nella sua città natale 12 anni dopo aver commesso, forse, lo scopriremo durante il film, un omicidio rimasto poi impunito. Ma in realtà la vera molla che porta il protagonista Luo Hongwu a Cali, la sua città, è quello di ritrovare una donna, che con cui ha avuto una relazione che non è mai riuscito a dimenticare. Quindi il noir e la parte sentimentale di questo film si incrociano continuamente, e si incrociano continuamente con la sua immaginazione, con i suoi ricordi, perché gran parte del film è settata nella zona dei sogni. L'uomo entra nella sala cinematografica in cui era uso andare quando stava in quella città, comincia a sognare e sogna la realtà, sogna la finzione, chi lo sa. È tutto un gioco sul confine fra questi mondi solo apparentemente sempre separati, quello della realtà e quello del sogno. Ci sono momenti della giornata, soprattutto la mattina, quando sogni e realtà si mischiano. Sembra abitare in quella zona il film, che ha una regia veramente magistrale, immagini rarefatte, ogni fotogramma è davvero un quadro, ed è un film con una sua complessità che però ci porta Boris un po' a riflettere su quella che è la logica, diciamo, all'occidentale rappresentata dai film di Christopher Nolan, no? Il viaggio nella memoria, il viaggio nei meandri della mente. Ecco, è quello un po' che fa all'orientale, in questo senso, Un lungo viaggio nella notte. È opera pazzesca questa, soprattutto nel linguaggio cinematografico, perché tutto quello che tu hai raccontato lui lo traduce anche in immagini, come diceva, no? Ogni fotogramma sembra un quadro, ma anche l'intersecarsi dei vari linguaggi sembrano costruzioni visive che accolgono in sé tutta una serie di mondi diversi. Quello che tu racconti, la commissione tra realtà, livello onirico e anche probabilmente speranza e paura, nel senso che lui spera di non aver fatto determinate cose, ha paura di scoprire che la sua memoria invece gli nasconde qualcosa di terribile, si traducono in una commissione davvero miracolosa tra 3D, piano sequenza e immagini col drone. Potenzialmente una commissione molto rischiosa, perché come sappiamo, in particolare le immagini col drone e il 3D non hanno avuto chissà quale fortuna nel realizzare grandi film d'autore. Gan Bi invece ci riesce a ricostruire anche il proprio immaginario, perché questo film, io vi consiglio, non è necessario per capirlo del tutto, ma è utile per entrare in quell'universo, di recuperare anche un altro suo film, che è Khalil Blues, che in qualche modo il centro di crescita, il centro di gravità permanente da cui si dipana poi questa storia. Curiosamente è un'altra storia di cronaca nera, un'altra storia in cui la memoria è fondamentale. Chiaro che invece però ci troviamo di fronte a una cosa completamente diversa da quella che abbiamo visto con Un'intima convinzione. Qui la realtà è qualcosa a cui si ambisce, ma che sostanzialmente non c'è mai. Il rigore narrativo, la scioltezza narrativa lascia spazio invece a una creatività straordinaria, a momenti davvero, appunto, come dicevi tu, rarefatti, in cui anche il singolo colore, anche il singolo cono di luce cambiano la percezione dello spettatore, ma anche del protagonista, e di fatto è come ritrovarsi, tu dicevi appunto della visione del Nolan in Oriente, insomma del Nolan pensiero, del cinema di Nolan in Oriente, ma se vogliamo, per trovare un riferimento ancora più alto, c'è anche tutte le riflessioni di Proust all'interno di questo racconto, di questo lungo viaggio, ecco, citando il titolo. Ne esce fuori un film straordinario, una piccola perla in questa estate così strana, in cui insomma le sale sono quasi deserte, ma dovrebbero riempirsi, perché si stanno piano piano in maniera atomizzata riempendo di tanti piccoli bei film, anche grazie a case di distribuzione più coraggiose di altre, e in questo caso noi ci ritroviamo di fronte a un regista che finora non ha avuto lo spazio che meritava, anche nei premi, nell'amore per il pubblico, è che invece è davvero un inventore, è davvero qualcuno che alza l'asticella della grammatica cinematografica. Quindi ve lo consiglio, sicuramente il film della settimana. Assolutamente, Un lungo viaggio nella notte, film della settimana, forse scettro che deve contendersi col film di cui parleremo fra poco, Boris, il re di Staten Island di Judd Apatow. Adesso linea alla regia, ci sentiamo fra poco. La rosa purpurea. Ma hai pensato di mettere la divisa? Fare il vigile del fuoco? Sì, che c'è di male? Lo puoi fare se non hai figli. Così non li distruggi il giorno in cui non torni a casa. Tu fai diventare pazzo chiunque provi a starti attorno. Le persone sono normali, poi ti conoscono e diventano Jack Nicholson in Shining. Dirò a mamma che volevi affogarmi. In una piscina rialzata, sei alto 2 metri. Io dico che tuo padre era un eroe. E gli eroi sono necessari. E dovrebbero poter avere una famiglia. Il re di Staten Island, il film con cui apriamo questa terza parte della Rosa Purpurea, regia di Judd Apatow, una firma importante per un certo tipo di cinema americano, con Pete Davidson nei panni del protagonista, e un cast di nomi non conosciutissimi ma molto molto ben amalgamati. Film uscito on demand in America, che arriva nelle sale cinematografiche in Italia con Universal Pictures. E allora, la storia di un ragazzo, Scott, un disadattato sostanzialmente, ha pulsioni suicide, usa marijuana, non lavora, frequenta amici che sono un po' dei dropout a loro volta, che è figlio a sua volta di un uomo, di un ex vigile del fuoco, di un vigile del fuoco che ha perso la vita nel compimento della propria missione. Vive appunto con la madre, nonostante abbia 24 anni, e quando sua sorella parte per andare al college e la madre comincia un pochino a guardare anche fuori dal recinto di casa, chiaramente le cose precipitano per quanto riguarda Scott, che finalmente deve mettersi di fronte alle proprie responsabilità. Il personaggio è centrale, il protagonista è centrale in questo film, perché il personaggio di Scott Carlin è interpretato da Pete Davidson, che è una giovane davvero, non più che promessa, ormai certezza del Saturday Night Live, che è stato fucina di tanti talenti, diciamo da John Belushi in poi, per il cinema americano. Però è importante anche, come dicevo prima, il regista, perché Judd Apatow è un regista che ha da sempre lavorato sul passaggio generazionale, è un po' la sua matrice, l'ha fatto sempre, anzi spesso in chiave di commedia un pochino più tirata, un po' più per far ridere. Pensate a film come 40 anni vergine, molto incinta, Questi sono i 40 o Un disastro di ragazza. In Re di Staten Island lo fa, ma lo fa in una maniera un po' più autoriale. C'è una direzione degli attori, una ricerca di un clima che sicuramente fa fare un passo in avanti anche a Judd Apatow come regista. Boris, secondo me è così, tu cosa ne pensi? Ma assolutamente sì, è un film che nella forma, nella durata e anche nei contenuti diverso da quelli a cui siamo abituati per quanto riguarda Judd Apatow, allo stesso tempo ha una serie di caratteristiche che invece lo avvicinano all'Apatow che conosciamo, che è la cura dei particolari, della comicità di situazione, il fatto che ha consacrato parte della sua carriera a celebrare i suoi amici, cioè quelli che sono passati per il Saturday Night Live, che fanno parte della sua generazione, che viene definito insomma l'Apatow Pack. Arriva anche il turno di Pete Davidson, che sicuramente di tutto questo gruppo, oltre ad essere il più giovane, è anche il più controverso, perché è un uomo che nel suo essere stand-up comedian ha pesantemente pescato nella sua biografia drammatica. Scott Carlin è il suo alter ego, ma è meno sfortunato, diciamo, di quello che è stato Pete Davidson, perché anche Pete Davidson è stato figlio di un pompiere, ma siccome la realtà a volte scrive copioni più incredibili della finzione, mentre nella finzione è un pompiere morto nel compimento del suo dovere, nella realtà il padre di Pete Davidson morì quando lui aveva 7 anni nel 2001 durante gli attentati dell'11 settembre. Stava salendo verso il Marriott Hotel, il World Trade Center, e nessuno lo vide tornare. È una delle tante scelte coraggiose che fa Apatow e che fa Pete Davidson, cioè non utilizzare anche quelle cose vere che avrebbero potuto sicuramente alzare la temperatura emotiva del personaggio e del film, per concentrarsi di più sulla costruzione di Scott, questo alter ego. Il Forse il piccolo difetto del film è che la complessità di Pete non esce al meglio, un po' per la durata che alla fine risulta eccessiva, un po' perché probabilmente lo stesso Pete che esce fuori da intenti suicidi che si vedono nel prologo del film, che esce fuori da una vita estremamente complessa, vuole invece costruire un alter ego che sia più dolce, che sia più lieve nell'affrontare le difficoltà nella vita, e quindi forse nella costruzione della macrostoria qualche passaggio a vuoto c'è. Il tutto però è sanato invece da queste piccole puntate, questi piccoli momenti che costruiscono il puzzle del film, che sanno essere in alcuni momenti straordinariamente toccanti. Penso per esempio al racconto di Scott che viene a contatto con i figli del nuovo compagno della madre e ha con loro un rapporto estremamente tenero, estremamente dolce, in cui tutta la sua mancanza della figura paterna, che lui denuncia anche in alcuni momenti con rabbia, no? Non devi fare il pompiere se hai dei figli, che è una volontà di andare contro la figura eroica del padre perché chiaramente gli manca, ha momenti più divertenti perché chiaramente il personaggio si presta. Apatow qua fa vedere che ha una struttura, una profondità estremamente diverse rispetto a quella a cui siamo abituati, rispetto alla commedia tout court generazionale che ci aveva raccontato fino adesso. Si capisce che almeno da una decina d'anni sta cercando un altro modo di raccontare, sta cercando un altro sguardo, e si capisce anche dalla scelta dei protagonisti. E allora Boris, questo era il Re di Staten Island, grazie, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Questa è la proposta cinematografica, torneremo fra poco a parlare di film che tornano in sala con un grande nome come quello di Jim Jarmusch, di cui vengono redistribuiti grandi film del suo passato in copie restaurate e ripulite. Adesso però giochiamo di nuovo insieme con la seconda parte del film misterioso di oggi. Non so come l'ha fatto. So solo che ci è riuscito. Lui ha trovato il modo per essere invisibile. Nel campo dell'ottica è un leader di fama mondiale e io so che è in grado di farlo. La visibilità, l'ottica, insomma, sono dettagli importanti in questo film, anzi addirittura nel titolo di questo film. Se l'avete indovinato, scrivetecelo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due Blu-ray che vi aspettano, fra poco vi sveliamo tutto. E parliamo ora di un festival che si apre a San Vito Lo Capo, splendida località della Sicilia, il 4 agosto, si conclude l'8, 4 giorni per parlare di ambiente, il festival è Sicilia Ambiente, tematiche ambientali, quindi ovviamente in un momento molto importante per trattare questo tipo di tematiche, perché certo la pandemia, il Covid, il lockdown ci hanno fatto ripensare anche al nostro rapporto comunque con l'ambiente che ci circonda, in questo caso chiaramente dettato da un virus, da una pandemia mondiale, ma il senso del nostro rapporto e del nostro ruolo rispetto a ciò che ci circonda è stata una delle riflessioni ricorrenti di chi era chiuso come tutti noi durante il lockdown. E durante questo Sicilia Ambiente si parlerà appunto di film, si mostreranno film a tematica ambientale. In giuria ci sono un amico della Rosa Purpurea, nel senso che l'abbiamo anche sentito recentemente, Agostino Ferrente, Davide Donatello e anche Nastro d'Argento per Selfie. Ci sarà anche Violante Placido, che è in collegamento con noi. Ciao Violante, grazie di essere qui alla Rosa Purpurea. Ciao a tutti. Violante, allora partiamo da lì. Tematiche ambientali, è un momento, come dire, di ripensamento del nostro rapporto con ciò che ci circonda, con la terra, con i ritmi, col mondo del sì. Lavoro, no? Sì, no, assolutamente. Purtroppo è un momento che arriva in maniera molto urgente, perché sono tutte queste riflessioni in realtà andavano, come dire, affrontate già da tempo. Effettivamente gli scienziati è da tempo che cercano di mettere in luce appunto l'urgenza di dover ripensare il nostro modo di stare sulla terra e di trovare, diciamo, un'armonia diversa nel poter stare su questo pianeta. E però purtroppo sempre quando le cose diventano, come dire, drastiche e drammatiche, allora siamo tutti portati a riflettere di più. Adesso appunto stiamo uscendo da questo periodo e come dire, secondo me alcuni sono riusciti a far tesoro di questo periodo, mi auguro che però insomma dei cambiamenti vengano veramente effettuati. È chiaro che alla base c'è l'economia, c'è un'economia che non guarda in faccia poi al benessere reale delle persone, perché poi muovere così tanto denaro con le industrie, denaro che poi dopo non ne usufruisce soltanto una parte della terra, e poi a che prezzo? Perché lo stile di vita che facciamo oggi non è sano per nessuno, non dà un reale benessere. Quindi c'è veramente da oramai da avere una consapevolezza. Certo, c'è molto da ripensare. Senti, tu durante il lockdown, diciamo, come hai incanalato le energie che comunque non riuscivi a mettere fuori nel tuo lavoro, negli spettacoli, nelle cose? Ecco, come hai cercato di trovare un equilibrio con la clausura forzata? Io su quello comunque sono abituata anche a stare a casa, a lavorare a casa, insomma, quindi non è stato uno shock in quel senso lì, però certamente tutto quello che è accaduto attorno è stato veramente drammatico, non sapevo se, cioè, mi sono chiesta più volte, sto sognando o è vero quello che sta accadendo. Quindi io poi ho un bambino piccolo, insomma mi sono dedicata molto a lui. Ho anche suonato spesso, sono nate anche delle collaborazioni inaspettate, perché poi insieme a Godano, Cristiano Godano di Marlene Kunz, che avevo sentito per fare un duetto da postare sui social, in realtà da quella cosa lì è nata che poi abbiamo suonato insieme sul palco del Primo Maggio un brano che io adoro, che è Nuotando nell'aria, che stava anche nella colonna sonora di Giacomo Frusciante. E quindi sono nate anche delle piacevoli sorprese. Poi non so, ho fatto un monologo di Amleto che poi è andato su un'altra iniziativa online, perché poi culturalmente diciamo tutti si sono dati da fare, ovviamente così è come scambio umano. Questo lockdown ci ha fatto capire quanto abbiamo bisogno degli altri e quindi ci ha reso, se vuoi, più umani. Certo, certo, assolutamente, e questo bisogno degli altri è un concetto importante che è venuto fuori durante questa pandemia. Una ultima cosa volevo chiederti, Violante, tra le altre cose il Covid ha anche un po' chiuso le porte a tanti spettacoli che dovevano girare, fra cui il tuo spettacolo Femme Fatale, no? Dedicato alle grandi artiste che hanno cambiato la cultura mondiale, italiane e anche non italiane. Lo vedremo questo spettacolo nella prossima stagione? Allora, adesso le cose sì, si stanno per fortuna rimuovendo, però è subentrato un altro impegno di cui non posso parlare, comunque sempre in qualità di attrice, e quindi dovrò vedere come incastrare le due cose, però di fatto lo spettacolo esiste, quindi se non sarà nel futuro prossimo, se anche lo dovrò mettere stand by, sicuramente più avanti avrà una sua ripartenza. E allora aspettiamo Violante Placido al cinema per questo film che è ancora misterioso e anche appunto dal vivo con il suo spettacolo Femme Fatale. Buon lavoro al Festival Sicilia Ambiente a San Vito Lo Capo e buon viaggio. Sei su un treno e quindi buon viaggio in questo momento. Sì, infatti sono in viaggio, c'è un po' di rumore, non so se l'ho sentito. Ti abbiamo sentito perfettamente comunque. Grazie ancora. Un saluto a tutti. Ciao. E allora, Violante Placido, La Rosa Purpurea, strada in diretta ancora, fra poco parliamo dei film di Jim Jarmusch, ascolteremo un brano di Taxisti di Notte con Roberto Benigni e poi tutti i film da vedere in casa, fra poco. La Rosa Purpurea. Cioè, quando si è ragazzi, 12-13 anni, donne, non c'è, però dentro si sente questa cosa da uomo, come sentivo io, e non c'era verso di far scoppiare questa cosa, che ce n'avevo tanta voglia anch'io, come tutti i miei amici. Gli venne idea, a un mio amico molto intelligente, di sfogarsi lo sacco che cosa. Si faceva, come dire, all'amore, non so come dire, con una zucca. Le zucche, calde, belle, calde, umide, cosemi dentro, belle, tonde, e via, putupum, putupum, insomma, come dire, si mi aiuti lei a trovare la parola, padre, si sfogava, si cosava queste zucche, insomma, così. Oh! Straordinario Roberto Benigni nell'episodio Roma di Taxisti di notte di Jim Jarmusch, nel quale lui appunto guida il taxi e cerca di raccontare tutte le sue perversioni al povero Paolo Bonaccelli, sacerdote alle prese con un infarto, uno dei momenti più esilaranti di questo collage di follie che è Taxisti di notte di Jim Jarmusch. Perché ve l'abbiamo fatto sentire? Perché tornano in sala tre film di Jim Jarmusch: Mystery Train, Permanent Vacation e appunto Taxisti di notte, in un'operazione che è anche più ampia, tra l'altro, portata nelle sale da Movies Inspired per far vedere di nuovo, e in versioni sicuramente più belle in termini di copie, eccetera, i film di Jim Jarmusch, di questo maestro in fondo di una cinema indipendente, alternativo, ironico, cinico, che sono un po' le caratteristiche appunto dei film che hanno fatto grande Jim Jarmusch. E noi ne vogliamo parlare con Stefano Iacono, che è il fondatore di Movies Inspired. Ciao Stefano, ben trovato alla Rosa Purpurea. Ciao carissimo, buongiorno a tutti. Allora Stefano, in due minuti raccontaci perché è importante andare a rivedere in sala questi film e anche gli altri, perché ne farete uscire anche altri, di Jim Jarmusch. Sì, facciamo rivedere i film di Jarmusch, sono la maggior parte restaurati, quindi si rivedono in sala come nuovi, sono freschissimi, sono moderni, sono attuali. Noi abbiamo lavorato per la prima volta con Jim su Only Lovers Left Alive e qui è nata un po' la voglia di approfondire un po' il discorso con lui, e qui appunto il progetto di, in quest'estate un po' anomala per il cinema, di rilanciare dei film che sono dei classici, controcorrente, come dicevi tu, per un pubblico assetato e affamato di cinema, perché no, insomma, rientrare in sala e vedere dei film particolarissimi, diversi uno dall'altro, riconoscibili fino a un certo punto, insomma nuovi, sono dei film nuovi, anche se dei classici già. E comunque come voi in Sispare siete molto attivi in questo periodo, anche con le nuove uscite, insomma un po' in controtendenza rispetto a chi ha avuto molta prudenza in questa uscita post-Covid. Sì, ci siamo dedicati sin dai primi giorni di marzo a rilanciare il progetto, sperando appunto che questa ondata non durasse poi così tanto, però sono tantissimi film in sala, le sale che stiamo cercando di aiutare, quelle che sono anche in qualche modo obbligate a tenere i locali aperti per difficoltà di un'intera industria, che è quella anche dell'esercizio e di tutte le persone che lavorano dietro la distribuzione dei film. Quindi noi da marzo abbiamo iniziato con una serie di nuove acquisizioni, ma soprattutto con rimettere in moto appena possibile, appena la legge ce l'ha permesso, tutti i laboratori, studi di doppiaggio, gli uffici stampa, insomma, per poter un po' far ripartire sin da subito l'industria, il nostro piccolo, insomma è un piccolo grande intervento fuori dal comune, penso. Ci auguriamo che altre società di distribuzione ci seguano, insomma ci affianchino e possono addirittura superarci in questo. E grazie allora a Stefano Iacono, fondatore di Movies Inspire, che riporta in sala i capolavori di Jim Jarmusch. A questo punto noi facciamo un salto indietro di 7 giorni e riascoltiamo una clip con la quale avevamo giocato. Ecco, noi volevamo chiedere qualcosa riguardo del quadrato magico raffigurato nel quadro di Albrecht Dürer, La Melanconia. Sì, La Melanconia, me lo ricordo. E si trattava di Bianca di Nanni Moretti, l'avete indovinato in tanti. I primi più veloci sono stati Michele Ammirati di Castrovillari, provincia di Cosenza, e Gianluca Pizzocolo di Cesate, provincia di Milano. Saranno i nostri due ascoltatori che riceveranno questa nuova versione un video di Bianca, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Fil TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Michele Apicella è il nuovo insegnante della scuola Marilyn Monroe, dove si infatua della collega Bianca. Solitario, irascibile, l'uomo dedica la sua vita vita all'osservazione maniacale di amici vicini di casa, i quali misteriosamente vengono uccisi uno dopo l'altro. È un giallo sarcastico e grottesco questo quarto film di Nanni Moretti, che rivolta al voyeurismo in psicanalisi. La finestra sul cortile si gira verso il cervello, inquadra ossessioni, feticismi, la sacra, le spadriglias, il barattolo sovradimensionato di Nutella, sono tutti momenti di culto, e mette in scena un'alienazione tanto surreale quanto autentica. Un film spiazzante e irresistibile, pervaso di quel dolente senso di inadeguatezza alla vita e di invincibile solitudine che nessuno ha mai verbalizzato come Moretti, e questo resta uno dei suoi film migliori, ora recuperabili in DVD Mustang. Giulio, come sempre, un paio di segnalazioni. Cominciamo con una molto particolare. Domenica su Cielo alle 23:15 c'è uno dei film dell'erotismo europeo degli anni 70 che si intitola Interno di un convento. Siamo nel 1829 in un convento marchigiano. Malgrado la continua sorveglianza della badessa, le giovani monache si abbandonano ad ogni sorta di piacere erotico, si amano tra loro, si concedono nottetempo a nobili e contadini, si masturbano. Esce uno scandalo, un omicidio plurimo, ma tutto viene messo a tacere. Figlio del surrealismo, elogiato dal vecchio André Breton, Valerian Borochik si ispirò a André Pierre de Mandiarg, scrittore oggi dimenticato, che gli fornì non solo intrecci ma anche quattro di nobiltà letteraria. Il suo era un erotismo che oggi sarebbe impossibile da pensare, e fu veramente un grande stilista e un grande sperimentatore del cinema moderno, tra i maggiori cineasti della storia del cinema e tra i più dimenticati. Martedì invece su Rai 3 tocca a una storia molto molto siciliana, anzi a una Sicilian Ghost Story. La Sicilia è tutta una fantastica dimensione, non ci si può stare dentro senza fantasia, scriveva Leonardo Sciascia. Questo è il punto di partenza di Sicilian Ghost Story di Fabio Grassadoni e Antonio Piazza, opera seconda dopo Il già notevole Salvo, del quale recupera l'originale sguardo antirealistico, pur ispirandosi a un agghiacciante fatto di cronaca, ovvero l'assassino del piccolo Giuseppe Di Matteo, il cui corpo fu sciolto nell'acido dopo 25 mesi di prigionia. È una fiaba nera, un film fuori dal realismo patetico del cinema italiano, dalle Gomorre e pedinamenti di borgata. È un film che affascina e a suo modo scuote in maniera straniante. Eccellenti una volta di più la fotografia di Luca Bigazzi e il montaggio di Cristiano Trovaglioli, un film da scoprire in prima visione TV sulla Rai. Grazie Giulio, ci sentiamo fra 7 giorni. Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di film TV. E siamo giunti alla fine della nostra puntata, di questa prima puntata di agosto, come sempre con l'epilogo dedicato al rivelamento del nostro film misterioso con cui abbiamo giocato oggi. Si trattava de L'Uomo Invisibile, film uscito durante l'inizio della pandemia in streaming e adesso disponibile in Blu-ray. I vincitori saranno annunciati la prossima settimana, l'8 agosto. Ci sentiremo qui, come sempre, a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.